giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Manovra autunnale approvata con la maggioranza compatta. Le correzioni di bilancio valgono 266 milioni di euro. Concessioni demaniali, la Regione non rinnoverà quelle che riguardano aree di particolare pregio ambientale. Il caso del Belle Italia Village a Lignano. Leggera flessione delle compravendite, ma cresce ancora il valore degli immobili in Regione. La Federazione Agenti Immobiliari registra in particolare un aumento dell'acquisto delle prime case. Compensi da fame per i precari del centro di smistamento postale. A Udine un sit-in dei sindacati. Stato di agitazione a Pordenone per i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate. La giornata della lotta alla povertà, il punto con la Caritas di Pordenone in città difficile, soprattutto la situazione abitativa. Studenti e alimentazione, a scuola prevale lo spuntino freddo, entra in campo il nutrizionista. Sport, basket, il derby di Cividale, bello e tiratissimo, vinto dalla Gesteco, i commenti degli allenatori. Le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Andrei Marusic. La politica in apertura, la manovra autunnale approvata, un altro passo compiuto dalla maggioranza in modo compatto. Diverse le critiche delle opposizioni. Sentiamo quali sono i principali ambiti nei quali saranno impiegate le risorse. Chiusa la votazione. 26 sì, 15 no. Dopo due giorni di dibattito è passato senza problemi l'assestamento di bilancio autunnale dal valore di 266 milioni. Maggioranza a favore, opposizione contraria. Per quasi due terzi le risorse sono destinate alla sanità, tema sul quale si è soffermato il confronto in serata. 150 milioni serviranno a rimpinguare i bilanci delle aziende sanitarie per sostituire mancati trasferimenti dallo Stato. Inoltre, spiega l'assessore Riccardo Riccardi, c'è un aumento del costo del personale che in due anni è cresciuto di 70 milioni, pari quasi al 7%. Altro capitolo di peso, l'agricoltura, a cui vanno 60 milioni per lo più ai fondi di rotazione. Tra le novità, interventi sugli impianti sportivi con l'ammodernamento del palaghiaccio di Piancavallo e l'allargamento a 8 corsie della pista dello stadio Tegel di Lignano. Lì, nel 2027, sarà ospitata EIOF, una sorta di giochi olimpici giovanili. La manovrina ha poi recepito una modifica normativa importante imposta dalla Corte Costituzionale. Basteranno due anni di residenza in Friuli Venezia Giulia per accedere all'edilizia agevolata, non più i cinque previsti da una legge voluta dal presidente Massimiliano Fedriga già nel suo primo mandato. Da tempo chiedeva questo cambio di passo l'opposizione, che in generale critica l'impostazione della manovrina e la chiusura su tutti gli emendamenti che comportassero spese. Soddisfatta l'assessore alle finanze Barbara Zili, che annuncia per metà novembre la presentazione della legge di bilancio annuale a cui la Giunta sta già lavorando. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. A margine dei lavori per la manovra, l'assessore al demanio Callari ha annunciato che non saranno rinnovate alcune concessioni demaniali marittime considerate di grande pregio naturalistico. Vanno salvaguardate e torneranno in campo all'amministrazione per essere valorizzate. Una di esse è quella su cui a Lignano sorge il Bella Italia Village, una delle principali mete del turismo associativo e sportivo. L'anticipazione, che ha colto di sorpresa anche gli stessi comuni, l'ha data ieri in consiglio regionale l'assessore al demanio Sebastiano Callari. La regione intende riprendersi la gestione diretta di alcune porzioni di litorale nel comune di Staranzano e la spiaggia con dune e pineta del Bella Italia Village di Lignano Sabbiadoro. Nelle intenzioni dovrebbe essere promoturismo a gestirle al fine di una tutela ambientale o di uno sviluppo turistico. Il Bella Italia Village, attivo tutto l'anno, 300 posti letto per persone con disabilità, è all'80% utilizzato da associazioni, società sportive, parrocchie, scuole. La concessione, utilizzata dal villaggio, 1 km 200 metri, è intestata a Getur e scade dopo 20 anni a dicembre 2024. 100 metri di spiaggia libera, una piccola porzione usata a scopo commerciale, ma rispetto alle altre ha una finalità non solo turistica ricreativa ma anche socio-assistenziale. Comprende la pineta adiacente e le dune che la regione vuole salvaguardare. Callari non esclude la possibilità di mantenere una parte di litorale per attività socio-assistenziali. Possibilità condivisa e auspicata dal presidente di Getur e Bell'Italia Village, Giancarlo Kruder. Tutto si inserisce nel progetto di scrittura di un nuovo PUD, piano utilizzazione del demanio, che ha ormai 18 anni. Le concessioni sono sostanzialmente delegate dal governo alla regione, che a sua volta le assegna ai comuni. Ma la visione, conclude Callari, dovrà necessariamente essere condivisa con i comuni interessati nei prossimi mesi. Per quanto riguarda Staranzano, l'area di interesse dovrebbe essere quella di Punta Barene, alla foce dell'Isonzo, già riserva e zona Natura 2000. Lignano Sabbiadoro, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. L'instabilità geopolitica non ha ancora influito sul mercato immobiliare regionale, che continua a godere di buona salute. Vendite e locazioni, in particolare queste ultime, crescono, spostandosi in parte al mercato turistico. Oggi a Trieste la presentazione dell'andamento del mercato immobiliare da parte della FIAIP, la Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari. Dai 200 euro al metro quadro di alcune periferie friulane e isontine fino ai 5.000 della costiera triestina e addirittura ai 7.000 euro al metro quadro di alcune abitazioni super lusso e vista mare di Lignano. C'è un po' di tutto nel borsino immobiliare regionale presentato dalla Federazione Agenti Immobiliari Professionali, che analizza l'andamento del mercato 2024 in Friuli Venezia Giulia. Il numero di transazioni è in leggero calo, nel 2024 si attesta almeno 3%. Al contrario, i valori immobiliari stanno aumentando. Quest'anno si chiuderà con un più 2-3%. Aumentano le locazioni e il loro valore, che cresce in media del 5%. Questa è la situazione attuale, ma ci sono fattori, spiega Stefano Nursi, presidente FIAIP Friuli Venezia Giulia, che influenzeranno il mercato nel medio termine. Nel prossimo futuro abbiamo tutta una serie di incognite non relative: la rigenerazione urbana delle nostre città, la riqualificazione energetica seguita dalla direttiva green europea, l'instabilità geopolitica, che sicuramente vanno a turbare un po' il mercato dei prossimi anni. Quello che è sicuramente aumentato a livello nazionale e anche in regione è l'acquisto delle prime case, più 10%. Giambattista Baccarini, presidente nazionale FIAIP. Significa che i cittadini tornano dopo 3 anni sempre di più a comprare l'abitazione principale grazie a una facilitazione dell'accesso al credito. Infatti sono aumentati i mutui per acquisto prima casa grazie al fatto che la Banca Centrale Europea ha prima annunciato, poi realizzato, dei tagli reali sia a giugno che a settembre. Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. Stato di agitazione per il personale dell'Agenzia delle Entrate di Pordenone. Lo ha proclamato la CISL Funzione Pubblica contro il progetto di spostamento dell'attuale sede di Via Giardini Cattaneo, a sua volta dalla futura realizzazione di un polo universitario al Bronx. Le amministrazioni coinvolte hanno proposto lo spezzettamento dell'agenzia in almeno 3 diverse sedi, soluzione che non piace al personale. Un'operazione di tale portata, afferma Salvatore Montalbano, segretario regionale della CISL FP, non avrebbe dovuto essere condotta e, pare, portata a termine senza nemmeno sentire i lavoratori e le lavoratrici interessati. Il sindacato ha chiesto al prefetto l'attivazione di un tavolo di conciliazione. Sullo sfondo resta l'ipotesi di uno sciopero. Un'avvertenza anche nell'ambito di Poste Italiane riguarda gli addetti assunti con contratti a termine nei centri di smistamento. Lavoro povero, dicono i sindacati. 800 euro al mese di busta paga, lavoratori fantasma, senza progetti per il futuro. La denuncia è di CGIL e UIL del Friuli Venezia Giulia. Il 31 ottobre ci sarà un sit-in di protesta a Udine dei precari di Poste Italiane, perché, sottolineano le due organizzazioni sindacali, versano in una condizione di povertà e precarietà. La richiesta è quella di attivazione del lavoro supplementare per gli addetti neoassunti allo smistamento nei centri di poste della regione. I colleghi, specifica la nota, sono stati assunti il 1° luglio di quest'anno con un contratto part-time orizzontale involontario. Livello retributivo è con una prestazione lavorativa giornaliera di 3-5 ore, che non consente loro in nessun modo di fare lavoro straordinario o festivo. Una tipologia contrattuale penalizzante dal punto di vista economico, sociale e professionale, ed demotivante. Ciò comporta inevitabilmente la difficoltà per questi lavoratori, spesso del sud, di trovare una sistemazione abitativa che permetta di vivere dignitosamente, invece di dover dividere un appartamento con altre persone. A questo si aggiunge la difficoltà di trovare eventualmente un secondo lavoro. Ugo Spadaro, UIL, sottolinea che il sindacato non accetta contratti come questo da un'azienda che produce più di 1 miliardo di utile netto. Le due organizzazioni sindacali chiedono quindi di attivare in modo permanente il lavoro supplementare, anche perché questo garantirebbe una maggiore produttività dei centri smistamento di Poste Italiane. Udine, Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. I nuovi scenari, la salute ma soprattutto la sicurezza in agricoltura sono i temi principali del convegno nazionale del coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro in collaborazione con ASU Friuli Centrale e Regione, che parte oggi al Teatro Ristori di Cividale. In agenda questo pomeriggio il ruolo delle regioni in agricoltura, le nuove forme di lavoro irregolare e le morti bianche nel settore agricolo. La cronaca: un cittadino albanese di 25 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Udine per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina presso la barriera autostradale di Ugovizza sulla A23. A bordo della sua auto viaggiavano altre 4 persone, sempre di nazionalità albanese, e solo 2 delle quali erano in possesso di documenti validi. Gli altri passeggeri avevano gettato i documenti fuori dal finestrino poco prima del controllo. E il ritrovamento degli stessi documenti a bordo strada e i successivi controlli hanno rivelato che tutti erano destinatari di provvedimenti di inammissibilità in vari paesi. Le 12:41, il tempo, cielo nuvoloso sulla regione, le temperature registrate alle 11, Trieste 19 gradi, Pordenone 17, Gorizia e Udine 15, Tolmezzo 13 gradi, Forni di Sopra 12,5, Piancavallo 11,5, Tarvisio e Sappada 10 gradi e 5 decimi, Tarvisio 8 gradi e mezzo. Sul Monte Lussari 8 gradi e mezzo, sullo Zoncolan 8 gradi, a Grado 16,5, Lignano 15,5. Previsioni a cura dell'ARPA: nel pomeriggio avremo cielo coperto con piogge in genere moderate alternate a fasi anche senza piogge. Una tavola rotonda dedicata alla crisi climatica è in programma nel pomeriggio a Trieste, organizzata dalla Diocesi. L'inizio alle 18, interverranno tra gli altri Maria Cristina Pedicchio, presidente dell'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, Valentina Gallina dell'Osmer ARPA e lo stesso Vescovo di Trieste, Trevisi, al quale è affidato l'intervento conclusivo. Titolo dell'incontro: Spera e agisci con il creato, cosa sappiamo dei cambiamenti climatici. È la giornata mondiale della lotta alla povertà. Abbiamo fatto il punto a Pordenone, dove abbiamo raccolto spunti di riflessione attraverso la Caritas. È la povertà abitativa l'elemento che più preoccupa, anche e soprattutto per chi una casa ce l'ha e ha anche un lavoro, un reddito da pensione. Bollette e spese condominiali gravano, specie sulle famiglie numerose e sugli anziani. Al Fondo Diocesano di Solidarietà della Diocesi di Concordia Pordenone le persone seguite sono raddoppiate nell'ultimo anno, da 38 a 81 nuclei familiari, da 118 a 261 persone. In difficoltà 7 su 10. Sono italiane. Andrea Baracchino è direttore Caritas Pordenone. Da quello che è il nostro punto di vista, la cosa che notiamo soprattutto tramite lo strumento del Fondo Diocesano di Solidarietà, finanziato dai sacerdoti della nostra diocesi e in parte anche un contributo della Fondazione Friuli, è fondamentalmente il tema delle spese legate alla casa. Abbiamo avuto praticamente un raddoppio di accessi al fondo e anche un incremento molto forte e significativo di quelli che sono stati gli aiuti economici dati. Parliamo di famiglie tendenzialmente numerose, anche se non solo, circa un 50% di persone appunto sono famiglie numerose, parliamo di un 75% di persone che hanno redditi da lavoro, tempo determinato, indeterminato o redditi da pensione, e tutti questi chiedono aiuto o per gli affitti o per le bollette. Quindi in questo momento credo proprio che il tema della casa sia un tema da affrontare in modo molto ampio e anche sinergico tra le varie realtà ed istituzioni. Al centro di ascolto della Caritas di Pordenone si sono rivolti più di 400 nuclei familiari, 250 quelli che per fare la spesa si rivolgono all'Emporio Solidale. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cultura, la piazza transalpina è il luogo simbolo della capitale europea della cultura e anche lo spazio di riferimento di Go 2025 alla Fiera del Libro di Francoforte. Posizionato all'interno del padiglione Italia, l'allestimento della piazza restituisce le atmosfere di un territorio di frontiera che negli ultimi decenni ha saputo guardare al superamento dei confini come a un'opportunità di crescita e sviluppo. Ed è lo spazio in cui la direttrice del GEC, Romina Cozzina, incontrerà diversi autori. Domani Gian Mario Villalta, direttore artistico di Pordenone Legge, e lo sceneggiatore sloveno Mika Kosovel. Sabato lo scrittore Diego Marani, vincitore della 5ª edizione del premio letterario Il racconto dei luoghi e del tempo, promosso dalla regione. Vari scrittori del Friuli Venezia Giulia saranno fra i protagonisti della fiera, primo fra tutti Claudio Magris, che sarà impegnato nel pomeriggio nell'arena della Buchmesse, e poi Susanna Tamaro e ancora Mauro Kovacic e Paolo Rumiz, che tra poco dialogheranno intorno al tema Abitare su una linea. Pasti sregolati fin da giovanissimi, indotti anche dai ritmi scolastici, specie alle scuole superiori, dove ci sono rientri pomeridiani, ma la mensa manca e quindi si pranza con panini e snack. Ne abbiamo parlato questa mattina a Buongiorno Regione, dove il professor Cappellari ha presentato il nuovo corso in dietistica dell'Università di Trieste. Dietisti, professione sempre più richiesta. Soprattutto pizzette e panini. I più fortunati hanno le polpette cucinate da mamma. E poi, se apri l'armadietto, trovi scorte di cibo spazzatura. A volte ti viene un languore, hai le provviste. Purtroppo è così un po' ovunque. A scuola merende veloci e poco salutari, ma troppo spesso anche pranzi inadeguati. È un problema che riguarda tutti gli studenti, a maggior ragione chi frequenta scuole dal tempo prolungato, istituti tecnici e professionali, o come in questo caso il liceo artistico, che prevede diverse ore di laboratorio pomeridiano. Ogni tanto mia mamma mi dà delle polpette o la cena del giorno prima, e ogni tanto mi fa i panini. E per lo più la roba avanzata, ogni tanto compro le cose alle macchinette. Non ci sono frigoriferi dove tenere le cose, né microonde per scaldare, quindi si mangia tutto freddo. L'unica cosa che posso fare è magari portarmi il contenitore termico oppure dei contenitori che si caricano su alle prese, però adesso non è neanche più possibile. Consapevoli del disagio le istituzioni scolastiche, che ammettono esiste un problema alimentare. Ma allora la scuola cosa può fare? Purtroppo poco, perché la normativa in materia ci obbliga anche a garantire la sicurezza, anche la sicurezza alimentare, quindi non possiamo permettere il delivery, quindi c'è un problema alimentare per i nostri giovani. C'è un problema alimentare e non è un caso che nuove professioni legate alla nutrizione siano sempre più richieste, tanto che UNITS ha appena fatto partire un nuovo corso di laurea in dietistica che in regione mancava. La sede a Pordenone, tra 3 anni usciranno 30 dietisti. Gli sbocchi professionali sono la sanità pubblica o privata, il dietista ha competenze sia per quanto riguarda la parte di terapia nutrizionale relativa alla dieta, ma anche per quanto riguarda la nutrizione artificiale. Però poi ci sono sbocchi nella ristorazione collettiva, una figura molto richiesta, e anche la libera professione, oltre che la prosecuzione degli studi e la ricerca. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Si è conclusa la campagna di scavo 2024 nell'area del fondo Ex Pasqualis ad Aquileia, gestito dall'Università di Verona, durante la quale sono stati investigati più di 700 metri quadri di terreno. Lo scavo ha raggiunto i più antichi livelli pavimentali finora evidenziati, in particolare un solido battuto databile al primo secolo d.C. Inoltre, nel corso dei lavori del 2024 è venuto alla luce un nuovo lastricato del complesso mercantile. Gli ultimi scavi hanno permesso il recupero di ulteriori chicchi di cereali combusti. Si tratta di dati di grande interesse, anche perché studiano la limitazione del tempo. Per il direttore di Fondazione Aquileia, Cristiano Tiussi, la convenzione di collaborazione con l'Università di Verona e quelle con le altre università che scavano ad Aquileia hanno un'importanza strategica per la valorizzazione delle aree archeologiche aquileisi indirizzate alla costituzione del parco archeologico. Sergio Adamo è l'ospite dell'appuntamento con cui a Pordenone si chiude la rassegna dell'IRSE Affascinati dal cervello alle 17.30 a Casa Zanussi. Il titolo è Comunicazione rispettosa nella sessualità, quale codice etico nel reale e nel virtuale. Sergio Adamo insegna letterature comparate e teoria della letteratura all'Università di Trieste, dove coordina il Centro di Ricerca per gli Studi di Genere. La pagina degli spettacoli a Trieste si apre con l'attesissimo E il nostro angelo, la stagione della Contrada al Teatro Bobbio. La straordinaria Ariella Reggio è un angelo, nel senso di creatura celeste, che alla vigilia della pensione ha un'ultima complicata missione: salvare un angelo di nome che vuol farla finita. Tutto viene raccontato con l'espediente di un radiodramma in registrazione, omaggio ai 100 anni della radio. Gli altri interpreti sono Maurizio Repetto, Adriano Giraldi, Marzia Postoni, Anselmo Luisi, Enza De Rose e Giacomo Seguglia. Testo e regia sono di Davide Calabrese. Il nostro angelo, prodotto dalla Contrada, sarà in scena al Bobbio fino al 20 e poi dal 24 al 27 ottobre. Sempre a Trieste, Sonia Bergamasco e Mirandolina nella Locandiera, capolavoro goldoniano che debutta a Rossetti per la regia di Antonio Latella. Un classico amatissimo e di straordinaria modernità che resterà sul palcoscenico del Teatro Stabile fino a domenica. Il nuovo teatro di Tavagnacco viene intitolato questa sera a Paolo Maurensic, scomparso 3 anni e mezzo fa. Dedicato all'autore della variante di Lüneburg, anche il concerto inaugurale della stagione nel teatro immersivo con la Friuli Venezia Giulia Orchestra diretta da Florian Krumpöck. Musiche di Beethoven, la Settima Sinfonia, Bach e Morricone. Di quest'ultimo saranno eseguiti alcuni brani della colonna sonora di Canone in verso, tratto da un altro celebre romanzo di Maurensic. Siamo allo sport, basket, serratissimo il derby del campionato di A2 tra Cividale e Udine, alla fine la spuntata l'Agesteco 75-73 a decidere il match, la tripla di Miani. Redivo, migliore dei Ducali con 18 punti per i bianconeri, 21 punti di Alibegovic e 14 di Daros, lasciato però in panchina nei momenti caldi. Ascoltiamo il commento dell'allenatore di Cividale, Stefano Pillastrini. Hanno iniziato facendo sempre canestro, poi il piano partita purtroppo faticava perché avevamo deciso di scommettere un po' sul tiro da fuori dei loro lunghi, quindi il piano partita faticava a prendere piede, abbiamo dovuto cambiare tanto, i giocatori sono stati recettivi in maniera incredibile perché hanno adattato, hanno lottato, sono andati oltre i problemi e in più ci siamo detti una cosa prima della partita: noi non dipendiamo dalle percentuali di tiro, noi non vogliamo dipendere dalle percentuali di tiro. Le partite di ieri sera in A2 hanno visto ancora il successo della capolista Rimini che vince sul campo di Orzinuovi. Seguono appaiate anche Cantù e Rieti dopo le vittorie fuori casa rispettivamente a Verona e a Milano. Sono ben 8 poi le squadre con 6 punti in classifica, tra loro Cividale e Udine. Domenica la Agesteco sarà in trasferta a Rimini, mentre Udine ospiterà l'Urania Milano. Ascoltiamo l'allenatore dell'APU Old Wild West di Udine, Adriano Vertmatti, ancora in merito alla partita di ieri sera. Siamo stati in vantaggio 35 minuti, abbiamo secondo me difeso attentamente la maggior parte delle volte e credo che in attacco è vero che ci sono state delle scelte abbastanza chiare della difesa di Cividale, ma potevamo giocare un po' meglio, quantomeno essere spaziati un po' meglio, perché è vero che loro riempivano molto l'area, soprattutto lasciando libero il nostro numero 4, e è vero che loro erano molto concentrati sulle penetrazioni di Ichi. È altrettanto vero che la nostra percentuale di tiri da 3 punti è stata molto alta, ma a volte non siamo riusciti ad arrivare ai tiri che volevamo perché non eravamo messi bene in campo nell'aiutare chi invece la palla in mano ce l'aveva. Si chiama metodo globale di autodifesa e ha già alle spalle un percorso decennale di buone pratiche educative realizzate in diverse scuole secondarie di secondo grado del Pordenonese. Ora il Comitato regionale della Federazione Italiana di Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali, in collaborazione con Sport e Salute FVG, propone un corso di approfondimento didattico indirizzato alla formazione e all'aggiornamento dei docenti di scienze motorie e sportive delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Domani dalle 14.30 alle 16.30 è in programma il primo dei 2 appuntamenti in presenza, l'altro è fissato per il 25 ottobre presso la palestra del Sekai Budo di Pordenone al centro sportivo De Marchi. La partecipazione è libera e gratuita. Responsabili del corso sono Andrea Vignola, docente del metodo per la Federazione Italiana Arti Marziali, e Rocco Garripoli, docente di scienze motorie. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Andrei Marusic e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Marco Ferrito e Caterina Cabrelli, ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Le 12:53, prossima edizione alle 15, grazie per la vostra attenzione, buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.